Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Una sorta di spugna decontaminante fatta in gran parte con fondi di caffè. Buonasera, benvenuti a Smart City. Parliamo di questo materiale. Torniamo per farlo a Genova, più precisamente all'Istituto Italiano di Tecnologia. Questo materiale è descritto sulla rivista della Società Americana di Chimica ACS, Sustainable Chemistry and Engineering. È una spugna, dicevamo, ed è il risultato del lavoro condotto dal gruppo di Smart Materials e Nanochimica dell'IIT e in particolare da Despina Fraguli, ricercatrice che è in linea con noi. Buonasera Fraguli. Buonasera. Senta, allora, parliamo delle proprietà di questo vostro ritrovato, diciamo una spugna a base di caffè, poi lo diciamo meglio, ma insomma quali sono queste proprietà decontaminanti? Allora, sì, è una spugna a base di caffè che possiamo usarla in acqua che contiene metalli pesanti, in particolare il piombo, il mercurio. E questa spugna può assorbire e concentrare questi contaminanti sulla sua superficie e così possiamo rimuovere o diminuire tantissimo la concentrazione di piombo, di mercurio in acqua. Leggevo che la capacità di assorbimento è del 99% di queste sostanze. Se in una situazione statica in cui diciamo c'è una spugna appoggiata in una tinozza diciamo di quest'acqua, e il 65% se invece l'acqua è fluente, comunque sempre percentuali elevate. Ecco, una volta che la spugna ha assorbito i metalli, che ve ne fate? Allora, possiamo rimuovere la spugna e possiamo anche dopo con un processo chimico rimuovere i metalli pesanti e concentrarli e così facciamo una disposal abbastanza sicura. Okay. Conferimento, insomma. Mm-hmm. Sì, sì. E ora stiamo studiando se possiamo riutilizzare la spugna o dopo possiamo anche buttarla o perché quella si può biodegradare e così dopo sparire in ambiente. Perfetto. Senta, veniamo a questo materiale, diciamo, come lo ottenete, di che cosa è fatto più precisamente? Stiamo prendendo gli scarti di caffè dai nostri bar, sì, dal nostro bar di IT, sì, e lo stiamo essiccando un po' così, stiamo rimuovendo tutta l'umidità in eccesso, e stiamo facendo il polvere un po' più soffice, sì, più piccolo, e poi lo stiamo mischiando con un elastomero, una silicone, un polimero a base di silicone, insieme con lo zucchero. Ok. Quindi facciamo questa miscela e poi aspettiamo che si polimerizza o si solidifica la miscela, sì, e poi la mettiamo in acqua, così lo zucchero si scioglie e al posto suo lascia delle porosità, tanti piccoli buchi sostanzialmente. Sì, sì, sì, sì. Ed è così che ottenete sostanzialmente questa spugna che nonostante sia fatta con caffè riutilizzato, che poi non lo ridate al bar, vero, quel caffè lì che avete utilizzato per fare gli esperimenti. Certo, ecco, no. Bene, sì, ne saranno felici i vostri colleghi. Senta, sì, com'è nata questa idea? Stiamo lavorando molto al nostro gruppo con i scarti vegetali, quindi prendiamo scarti di diverse origini come dalla buccia di arancia, dal pomodoro, dal prezzemolo, da tutto questo che potete immaginare. Facciamo le polvere e poi stiamo formando nuovi polimeri di questi scarti. Ogni uno di questi polimeri o compositi hanno le proprietà del scarto che abbiamo utilizzato. Sappiamo che il caffè in generale come polvere ha una grande affinità con metalli pesanti, quindi volevamo fare una combinazione per formare una spugna per utilizzarla per le pulizie dell'acqua. Certo, quindi insomma è stato tutto calcolato, ecco, non è una di quelle robe che saltano fuori per caso, tutt'altro. Senta, una domanda, le chiedo di rispondere molto velocemente, prevedete un futuro commerciale per questa vostra idea, ci state lavorando sopra? Ci stiamo pensando, sì, okay, stiamo discutendo. E allora spero che qualche ascoltatore, magari chissà, tra gli imprenditori in ascolto, io lancio sempre l'appello, se vi interessa, rivolgetevi a Despina Fraguli. Grazie per intanto. Grazie. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.